questo mese abbiamo fatto diversi incontri con i comitati dei genitori di alcuni istituti comprensivi e abbiamo avuto un'ottima risposta e la volontà di costruire insieme una campagna sulle scuole. Noi speriamo più scuole possibili, ipoteticamente tutte le scuole. Abbiamo già una quarantina di plessi che hanno aderito, quindi da settembre inizieremo a diffonderlo nel territorio per aumentare l'adesione delle scuole e per aumentare l'adesione evidentemente dei comitati dei genitori, che sono il nostro partner per questa campagna. La campagna si chiama Quanto è pesa l'aria a scuola ed è appunto la voglia di capire, dopo i primi dati di aria pesa che avevano evidenziato delle criticità, anche se non c'era un focus specifico sulle scuole, ma qualche cittadino l'aveva inserito e quindi dimostrando che c'era un interesse proprio accanto a alcune scuole, e si era dimostrato che spesso l'aria era come uguale o a quella delle strade trafficate o a quella di altri luoghi di Bologna, e questo ci ha molto preoccupato. Dopo questa iniziativa, dicevo, l'idea è quella di fare un focus sulle scuole e immaginare una campagna che possa andare a verificare i luoghi esterni alle scuole in cui i ragazzi fanno attività o risiedono, tipicamente l'entrata e l'uscita da scuola, dei cortili, in cui magari fanno attività fisica e possono anche aumentare i livelli di respirazione e quindi assumere e assorbire più inquinanti e più NO2, quindi in qualche modo produrre effetti significativi sulla salute. Si eviterà di installarli tipo a febbraio quando ci sono i riscaldamenti accesi, quindi quando prevedete di fare la campagna, che durerà sempre un mese? Sì, l'idea è quella che possano essere anche complementari ai dati che abbiamo raccolto su aria pesa, che quindi erano nel mese di febbraio, e che quindi potessero in qualche modo essere un'altra strada. Cercheremo di starlarli fra metà ottobre e metà novembre, diciamo questo è il momento principale. Non sappiamo ancora la data perché dipenderà appunto da come andrà a settembre, quali saranno i tempi di consegna dei campionatori. Come sapete saranno 4 settimane e potrebbe essere interessante perché dipende dalla meteorologia, ma è un momento in cui l'incidenza dei riscaldamenti è un po' inferiore rispetto a febbraio, anche perché abbiamo avuto un febbraio freddissimo con la neve. Questo ha anche in qualche modo pesato sui risultati nostri. Si è parlato della Cirenaica, che è un luogo in cui si vuole aprire un ulteriore supermercato ed in cui ci sono 3 scuole nell'arco di un breve raggio, e al contrario di come è sostenuto in comune si pensa che l'impatto di un nuovo supermercato che va ad aumentare il traffico poi abbia conseguenze anche sulla qualità dell'aria. È una correlazione già verificata oppure è un'ipotesi? Qual è l'impatto che si potrebbe avere? Allora, noi non abbiamo dei dati prima e dopo un supermercato, ma aria pesa farà anche questo, nel senso che poi se vengono costruiti e non vengono ascoltati i cittadini e poi si osserva un peggioramento, evidentemente i cittadini ne trarranno le conseguenze. Detto questo, abbiamo verificato che nei supermercati i livelli di concentrazione di NO2 nei parcheggi dei supermercati sono particolarmente elevati, e in prossimità dei supermercati anche, quindi questo ci dà idea di come una correlazione fra presenza di supermercati e alte concentrazioni di NO2 non sia un'ipotesi campata in aria. Non solo, ma una cosa che ha verificato Aria Pesa è che dove ci sono strade trafficate si verificano alte concentrazioni di NO2. Può essere banale, ma per un po' di tempo è anche stato negato l'ipotesi che in qualche modo gli inquinanti fossero più o meno tutti uguali in Bologna, no? In realtà, all'interno di una condizione comunque critica della qualità dell'aria, evidentemente dove vicino alle fonti di emissioni, cioè vicino alle strade, la situazione è ancora più critica e ogni intensificazione del traffico produce ulteriori inquinanti. Questa è una cosa osservata già dalla prima campagna Aria Pesa, e che quindi ci fa dire che dove c'è un supermercato e quindi c'è, per forza di cose, nella maggior parte dei casi ai supermercati ci si va in macchina, ci sarà anche un peggioramento delle concentrazioni di NO2. A livello politico, in particolare sul comune, ci sono avute già delle conseguenze positive della campagna di febbraio? O quali sono i provvedimenti che ci si aspetta dopo le rilevazioni che ci saranno anche rispetto alle scuole? Allora, a me sembra che ci sia una nuova attenzione sulla qualità dell'aria, che secondo me abbiamo prodotto anche con la nostra iniziativa. È partito un laboratorio aria all'interno della Fondazione per l'Innovazione di Bologna e sono partite una serie di iniziative. Fatichiamo ancora a vedere delle soluzioni reali al problema, stiamo ancora, diciamo, semplicemente togliendo un po' di polvere dalla superficie di questo tema. Abbiamo bisogno di scelte radicali, perché la qualità dell'aria incide radicalmente sulla nostra salute e sappiamo che produce anche un certo quantitativo di decessi per tutti, diciamo, all'anno, e quindi sappiamo che nei dati per esempio del 2010 c'erano elaborati da ARPA anche Modena, una campagna che si chiama VIAS, c'erano circa 100 morti per 100.000 abitanti per il particolato e 67 per gli NO2 ogni 100.000 abitanti, fate i conti, e una trentina per l'ozono, quindi 200 persone che ogni anno rischiano di morire per la qualità dell'aria. Insomma, sono numeri effettivamente significativi, ecco. La situazione, le rilevazioni di Aria Pesa si intrecciano anche con altri comitati, altre battaglie che si stanno svolgendo nella città di Bologna, come quella per i prati di Caprara. Quali sono i nessi? In questo caso sì, sia il tema, diciamo, dei prati di Caprara che quello del passante, e in realtà è anche connesso al tema delle scuole. In particolare sui prati di Caprara ci sono diverse scuole che hanno dato risultati critici durante la prima campagna di Aria Pesa e che quindi sono interessati a un approfondimento su questo tema. Per questo in quel caso aumentare in maniera molto significativa con degli outlet o dei nuovi insediamenti di 2.000 persone il traffico veicolare e tagliare uno del più grande bosco di Bologna che dà ossigeno e sequestra inquinanti proprio nella zona fra le più inquinate è particolarmente grave e pensiamo a maggior ragione che debba essere fermato.